24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 36 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 24 febbraio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno a Maria Latella. Buongiorno Simone, noi di solito i complimenti non ce li facciamo perché non si usa facendo la stessa trasmissione, però lasciami dire che siete stati proprio molto bravi questa mattina con questo speciale coronavirus che credo abbia dato tante risposte. È un momento in cui le risposte contano e, sì, e dunque complimenti, sì, complimenti a te, complimenti a tutti ai colleghi. Ma grazie, ecco, grazie a Nicoletta Carbone, a tutti i colleghi, certo, di GR24. Nicoletta Carbone, eccellente, eccellente professionista, sì, su questo, sì, terreno, sì, grazie. E Nicoletta, ai colleghi di GR24 che hanno fatto questo stesso, sì, lavoro nel fine settimana. Oh sì, c'è bisogno di tante risposte, molte risposte in realtà non ci sono. Di certo però ci sono tutta una serie di temi aperti che hanno a che fare con questo fine settimana nel quale abbiamo scoperto di essere il terzo paese al mondo per numero di contagi da coronavirus. Sarà da capire, cercheremo di capirlo tra poco, se questo dipende anche dal fatto che facciamo più controlli degli altri. Sergio Brusin, capo della sezione di risposta epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie Europeo, lo ripetiamo dunque, quindi forse ci può dare un quadro più preciso. Brusin, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno, sono proprio contenta che lei sia il primo interlocutore e con una visione europea, perché in tanti ci stiamo chiedendo in questo momento se al di là dell'offerta di medici che potrebbero appunto arrivare da altri paesi europei e di supporti sanitari, ecco, se l'Europa si sta comportando con una voce sola. Era forse il momento questo di agire unitariamente. Lo chiedo perché appunto noi in Italia abbiamo fatto circa 4.000 tamponi. A quanto si apprende, a quanto ha detto anche ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conti, in Francia per esempio il numero è inferiore, 400. Mi risulta che mentre negli aeroporti lombardi o anche a Fiumicino, se uno arriva dall'estero viene misurata immediatamente la temperatura, quale che sia il volo, ieri sera aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, aerei in arrivo dall'Italia e anche da altri paesi, nessun controllo della temperatura, niente di niente, un solo cartello in cinese. Allora, non è sbagliato che di fronte a un evento di tale portata l'Europa non prenda delle misure sanitarie unitarie? Beh, è un peccato che non succeda, ma la risposta sanitaria è dedicata ai Paesi membri, non è una cosa che secondo i trattati deve venire fatta a livello europeo. La Commissione europea cerca di coordinare al massimo e noi dal nostro centro coordiniamo il più possibile, ma poi le decisioni sono prese a livello locale. E certo che ci sono delle differenze, almeno per quel che riguarda i test fatti e il triage fatto agli aeroporti, però perlomeno il tipo di test che vengono fatti e il tipo di scambio di informazioni, quelle sono completamente coordinate. E sono coordinate, Brusini, in realtà a livello internazionale, non solamente europeo. La fermo solo un attimo per ricordare agli ascoltatori il 349-238-6666, che è il numero per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio e anche con le vostre domande naturalmente, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Brusin, cosa dice su questa cosa che l'abbiamo sentita ieri per esempio da Ilaria Capua, no? Il ragionamento secondo il quale in Italia si sono scoperti più casi semplicemente perché si sono fatti più controlli, perché dato che nell'80-90% dei casi questo virus ha un decorso, diciamo, da normale influenza, a volte anche qualcosa di meno, insomma, ogni tanto passa via così. Beh, è un'ipotesi plausibile, però non abbiamo ancora dei riscontri precisi. Il numero di test fatti nei paesi europei varia molto da paese a paese. È chiaro che poi se uno non testa non trova. però è un pochino strano che non vedano a livello clinico maggiori polmoniti. È una risposta abbastanza difficile. Finché non abbiamo più test e la possibilità anche di testare persone che sono state esposte al virus ma non hanno sviluppato la malattia o sono guarite, no? Con test sul siero invece che test che cercano semplicemente il virus, questo tipo di risposte diventerà difficile. Ma mi perdoni, non è strano che in Baviera siano stati segnalati 16 casi all'inizio della diffusione dell'epidemia in Europa e poi più niente? Beh, ma quei casi erano tutti quanti collegati a una sola introduzione dalla Cina e hanno dimostrato che l'isolamento precoce dei primi casi funziona per contenere la diffusione. Questa è una delle poche certezze che abbiamo. L'isolamento delle persone precocemente funziona come misura di prevenzione. E se poi hanno avuto altre introduzioni che hanno portato a casi molto leggeri che non sono finiti in ospedale, questo per adesso non possiamo saperlo. Su quello ancora non abbiamo un punto preciso. Lei, allora, abbiamo detto che è plausibile l'ipotesi maggiori controlli. C'è un'altra spiegazione possibile per l'incremento di casi italiano? Ormai siamo intorno ai 150, come si diceva, il terzo paese al mondo. Certo, è limitato anche nello spazio, bisogna dire, Brusin, perché sono molti concentrati in quella zona dell'Odigiano della quale abbiamo lungamente trattato, però ha altre spiegazioni? Non è che ce ne possano essere tante altre. In realtà possiamo aver avuto più introduzioni, non necessariamente dalla Cina, ci sono anche altri paesi che hanno parecchi casi e non è impossibile che ci possano essere esportazioni da paesi che non sono la Cina e che arrivano in Italia. Tutto il quadro è abbastanza confuso, anche perché come si diceva prima, i paesi che testano sicuramente trovano, i paesi che non testano non trovano e possono esportare senza nemmeno saperlo. Senta, professore, non essendo io un competente, cito quello che i competenti ipotizzano e mi sembra l'unica misura di buon senso. Questa mattina sul Fatto Quotidiano il professor Pierluigi Lopalco, docente di igiene e medicina preventiva a Pisa, ipotizza che ci possa essere stata anche, diciamo, senza formulare in nessun modo accuse perché non è proprio il momento, ma che ci possa essere stata una certa sottovalutazione magari negli ospedali di piccole dimensioni di provincia che, dice il professor Lopalco, non sono attrezzati e viene da pensare appunto che il focolaio è esploso proprio in un piccolo centro a Codogno e ci sono stati appunto dei casi legati all'ospedale del paese di Codogno. Che tipo di profilassi gli ospedali piccoli e grandi dovrebbero seguire per evitare appunto che si espanda, perché è dagli ospedali e dai pronti soccorso, che tra l'altro sono stati chiusi, che può venire il maggior pericolo? Il professor Lopalco è una persona molto ragionevole, è un collega perché ha lavorato anche lui nello stesso centro. Quello che dice ha delle basi. I piccoli ospedali adesso sono informati. Ci sono delle procedure che sono state sviluppate nei piani speciali per l'influenza ai tempi della pandemia di influenza che spiegano esattamente quali sono i protocolli da utilizzare negli ospedali. Chiaramente negli ospedali piccoli questi protocolli magari si erano un pochino così impolverati, no? Nel tempo, ma adesso con l'emergenza sono sicuramente arrivati e sono stati riimparati da tutti quanti. Nei pronto soccorsi è importante che le persone che arrivano con sintomi respiratori vengano velocemente isolate e testate. Questo può non essere successo agli inizi, ora con tutta quanta l'attenzione che c'è sul coronavirus non penso possa succedere più. Allora, stanno piovendo domande, richieste di informazioni dagli ascoltatori, da quelle insomma anche pratiche in questa situazione complessa che sta vivendo il Nord. Un ascoltatore dice: sono un HR manager, cioè un manager delle risorse umane, e francamente sono un po' in difficoltà, vivo in Veneto, gestisco il personale di un'azienda in Veneto e non so che cosa fare. Altri ci mandano messaggi su WhatsApp. Buongiorno, sono Elena da Padova. Assicuro che il traffico è assolutamente pesante come al solito. Evidentemente non siamo rimasti a casa. Arrivederci. Per favore, parliamo della normalità, della gente che va a lavorare, del traffico normale. Non allarmiamo inutilmente una popolazione già spaventata. Il giornalista deve fare informazione. Allora, fatevi dire da questo medico che cosa ha fatto la Francia verso i cittadini cinesi che sono rientrati dalla Cina, perché ce l'ha spiegato ieri il dottor Ricciardi. Beh sì, l'abbiamo sentito da Ricciardi. A quell'ascoltatore si può rispondere tranquillamente, Maria, che informazione è esattamente quello che stiamo facendo, è tutto meno che allarmismo. Ma assolutamente no, infatti io volevo proprio chiedere al professor Brusin, ci sono stati 3 morti in Italia al momento, 3 anziani, di cui una era purtroppo da tempo malata di tumore. Quale incidenza ha il coronavirus sulle persone che sono già fragili nelle loro condizioni di salute? Perché al momento, a parte i 2 cinesi ancora ricoverati, la coppia ancora ricoverata allo Spallanzani, le cui condizioni sono stazionarie, i 3 morti sono 3 persone che avevano delle condizioni di salute, così abbiamo letto, cito sempre quello che leggo perché appunto non mi impanco a competente su cose che non, di cui non lo sono, però sono 3 persone che erano già in condizioni di fragilità o comunque anziane e in precedenza già sofferenti. Dunque stiamo parlando di un allarme eccessivo, secondo lei? Ma secondo gli studi pubblicati recentemente, i cinesi hanno pubblicato uno studio con 7.000 casi, quindi cominciano ad essere numeri importanti e la mortalità è tra l'1 e il 3%, che è probabilmente un po' sovrastimata perché è chiaramente vista solo sui casi importanti e non necessariamente vedono i casi che non hanno sintomi. Allarmismo è difficile da dire, però questa è una malattia nuova. Malattie nuove non sappiamo esattamente come si comportano. Sicuramente colpiscono di più le persone fragili e sono quelle che hanno più problemi, ma questo capita anche con l'influenza stagionale, però è una malattia, è un virus a cui non siamo mai stati esposti e quindi nessuno di noi ha una precedente immunità, quindi non sappiamo bene come si svilupperà la cosa. Potrebbero esserci molti molti più casi e se c'è una mortalità dell'1%, la mortalità andrà su, non c'è niente d'altro. Allora, una pausa, resti con noi Brusin, poi andiamo anche a sentire il presidente del Veneto, Zaia. Mattino. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, buongiorno e benvenuto, bentornato ai nostri buongiorno. Microfoni. Molti si chiedono se le misure prese da voi, dalla Lombardia, dal Piemonte, la chiusura delle scuole non siano eccessive. Cosa risponde? Bah, che siamo pieni di premi Nobel. Io so che ho solo un obiettivo, che è quello di tutelare la salute dei miei veneti, e lo farò senza se e senza ma. Queste non sono fra l'altro azioni popolari, no? Abbiamo fatto delle scelte impopolari, non abbiamo solo chiuso le scuole, abbiamo chiuso i musei, abbiamo chiuso le fiere, abbiamo chiuso tutte le manifestazioni. Ho voluto chiudere il carnevale, nella mia ordinanza c'è la chiusura delle chiese. E penso che quell'isolamento che io ho sempre rivendicato come utile dalla mia conoscenza dei virus, ha visto considerato che quantomeno li ho studiati all'università, sia fondamentale. Del resto nella Repubblica Veneta nasceva il concetto di quarantena, non avevano gli antivirali, non avevano i vaccini, però avevano capito che il contatto è il primo elemento di diffusione. Consideri che questo è un virus che ha una bassa letalità, si parla dell'1%, ma è molto aggressivo, cioè quindi colpisce la popolazione, e soprattutto un contagiato può dare origine a 4-5 contagi. Presidente Zaia, ieri sera per alcune ore i passeggeri di due treni che dall'Italia stavano andando in Austria sono stati bloccati. Poi la circolazione è ripresa, ma tutto nasceva dal fatto che due passeggere tedesche a bordo di uno dei treni avevano la febbre e quindi il capotreno aveva segnalato la cosa. Lei pensa che abbiano fatto bene le autorità austriache a bloccare per qualche ora la circolazione? Pensa che faccia bene la Romania a chiedere la quarantena degli italiani che arrivano lì? E la stessa cosa ha fatto Israele. Insomma, che cosa pensa delle misure che gli altri paesi stanno prendendo nei confronti degli italiani? Ma guardi, torniamo al tema iniziale, nel senso che la lotta al virus, la lotta principale di base in tutte le linee guida è quella dell'isolamento. E i temi sono l'isolamento e quindi l'isolamento fiduciario. Noi usiamo questo termine che a volte è anche brutto, duro, della quarantena. L'isolamento fiduciario vuol dire stare in casa, e dall'altro le linee guida, lavarsi spesso le mani, i contatti fisici con le persone, eccetera, che non sto qui a ricordare. Ogni paese poi è sovrano nel regolamentare ovviamente le sue regole di igiene e nella sanità. In generale però mi permetta, dottoressa, io vorrei dire una cosa. Io ho l'impressione, ma penso che non sarò smentito nei giorni, che il virus ormai sia ubiquitario. La verità è che noi l'abbiamo cercato. In medicina si dice che chi cerca trova, chi non cerca non trova. Tant'è vero che ad esempio l'anziano... Il paziente numero uno del Veneto, che dopo 14 giorni di cure non rispondeva alle cure, non avendo comunque il prototipo, non essendo stato comunque il prototipo del paziente tipo che aveva avuto contatti con la comunità cinese, che donne infette, eccetera, comunque è stato sottoposto al coronavirus, altrimenti sarebbe stato derubricato come una morte per complicazioni da influenza. Quindi ho l'impressione che anche i nostri vicini di casa, se magari andassero a indagare sulle mortalità date dal virus influenzale, magari qualche sorpresa se la trovano, considerato che l'influenza comunque, anche questa, quella normale, quella che conosciamo, quella dell'ondata di quest'anno, che si è sovrapposta al coronavirus, ricordiamocelo, è comunque un'influenza che dà anche a lei mortalità. Sì. Zaia, vorrei capire questo. Avete elaborato, dico lei, Fontana, e anche il ministro con il quale sarà in costante contatto, avete elaborato gli scenari? Intendo questo. È stata disposta per ora, per esempio, la chiusura delle scuole, dei musei, delle chiese, come ci diceva lei, per una settimana. Ma tra una settimana, se le cose non vengono contenute, che cosa succede? Ma guardi, per quanto riguarda il Veneto, noi guardiamo con attenzione i dati, in questo momento siamo ai 25 contagiati, sì, con un deceduto, alcuni dei contagiati sono in isolamento fiduciario, cioè sono in casa. Dall'altro l'evoluzione dei dati è fondamentale, capire se c'è una crescita esponenziale oppure no. Non escludo di rinnovare il provvedimento qualora fosse necessario, ma senza esitazione. Diciamo che questo provvedimento ha degli aspetti che vanno chiariti. Il primo, che è quello di natura assolutamente sanitaria, che è quello dell'evitare gli assembramenti, le folle, eccetera. Mi scusi Zaia, mi permette una cosa. Io però quello che dicevo è, se sono stati elaborati degli scenari, le faccio un esempio, no? Lei noi sappiamo, non so, se i casi crescono del 5% riapro le scuole, se i casi crescono del 20% le scuole le tengo chiuse. Ha capito cosa intendo? Cioè capire un attimo, dare anche un'idea di programmazione di cosa sta facendo lo Stato, genericamente inteso, come Regione Veneto, come... Ha capito cosa intendo? Noi abbiamo un comitato scientifico che segue tutta questa partita. Il comitato scientifico ovviamente sta valutando ogni scenario, però è pur vero che qui poi day by day si aprono fronti nuovi. E per farle un esempio, visto che parliamo di programmazione di scenari, io ho fatto mettere tende riscaldate in prossimità di tutti gli ospedali, perché qualora avessimo un picco di influenza, questo è un virus influenzale, simile influenzale, definiamolo così, abbia necessità ad esempio di posti letto. Dopodiché la vera preoccupazione qual è? Che se è molto endemico e colpisce molti cittadini del Veneto, io devo fare in modo e devo fare veramente tutelare al massimo, e li ringrazio uno ad uno, i miei 54.000 dipendenti della sanità, che il virus non mi colpisca per quanto possibile i dipendenti della sanità, perché se no mi va in crisi il sistema sanitario. A lei a questo punto mi chiede: a cosa facciamo? Guardi, io non ho la bacchetta magica. Cioè, il tema è che noi dobbiamo solo attivare tutte quelle condizioni e situazioni che da fare in modo di tutelare i sanitari, perché sono il nostro valore in questo momento, e ovviamente tutta la popolazione. Tra l'altro c'è, come dire, gli occhi di tutto il mondo puntati anche sul Veneto. Il Financial Times oggi mette proprio in prima pagina una foto del Carnevale di Venezia, dando conto appunto delle 10 città che sono chiuse. Ma c'è un aspetto che, come Presidente della Regione Veneto, ovviamente le sta molto a cuore, che è il lato economico, quello che riguarda le imprese. Ora il governo ha annunciato un decreto per aiutarle, tutte le aziende nelle zone di crisi, è attesa la sospensione dei pagamenti di tasse, cartelle, anche delle bollette elettriche, e c'è un accesso che si presume sarà più facile al fondo di garanzia delle pubbliche e medie imprese. Sono misure che lei vede come di azione immediata? Ne state già ragionando? Guardi, non ne stiamo ragionando, ci vogliono, sono fondamentali. Le valuterò e le commenterò nel momento in cui le vedrò scritte nero su bianco, e questa è una sorta di cataclisma per il Veneto dal punto di vista economico. Le dico solo un dato: la prima industria in Veneto è il turismo, con 18 miliardi di fatturato, la prima industria peraltro, fra l'altro, in Italia siamo i primi per turismo con 70 milioni di presenze turistiche. Lei può immaginare, ieri Washington Post titolava che siamo la terza area al mondo con più contagiati, fermo restando che noi li cerchiamo questi contagiati, continuo a sottolinearlo. Mentre gli altri, lei dice, non li stanno cercando. Ma guardi, se uno conosce i virus e li studia, sa benissimo che il virus a un certo punto non è più un fatto familiare del mio vicino di casa, ma diventa ubiquitario, no? Quando si parla del picco dell'influenza, noi sappiamo che ormai molto probabilmente abbiamo sovrapposizione di coronavirus con il virus influenzale, e non so, se noi stiamo scandagliando, stiamo cercando. Peraltro ho una bella notizia: i dipendenti dell'ospedale dove sono stati due contagiati e il deceduto sono tutti negativi al momento. Questa è una buona notizia. Allora, le misure del governo ci vogliono, anche perché noi abbiamo il problema, dicevo, il Washington Post, abbiamo il grande problema della comunicazione. Cioè già paghiamo il conto dell'acqua alta, che sta ancora pesando dal punto di vista di comunicazione internazionale. Si figuri se adesso si inizia a vedere le copertine, le aperture dei giornali internazionali. Le stavo citando appunto, il Financial Times c'ha la copertina di una maschera sulla piazza di San Marco, e accanto invece una addetta alla sorveglianza con la mascherina. Un'immagine molto eloquente. Molto significativa. Allora, grazie. Poi considerate, lo dico a beneficio dei cittadini, noi abbiamo per fortuna la civiltà di avere una sanità universalistica, cioè garantita a tutti, dove si fa di tutto per curare i cittadini. È ovvio che da noi emerge ancora di più, no, il coronavirus. Lo dico perché d'altra parte qua, magari se costa far tutto, costa anche fare un test, probabilmente non lo fanno con la facilità che lo facciamo noi. Grazie Luca Zaia, presidente grazie del Veneto, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. E abbiamo ancora con noi, lo ringraziamo per l'attesa, Sergio Brusina. Abbiamo deciso di dedicare 10 minuti al presidente Zaia perché aveva questo tempo e poi doveva scappare. Appunto, abbiamo ancora Sergio Brusina. Fammi dire, Simone, che comunque nel contesto difficile che vede la nostra Italia al centro e tutto, abbiamo ogni tanto anche qualche incoraggiamento. Per esempio, c'è un tweet di Rob Cox, che è il capo di Breaking News, quindi di Reuters nel mondo, che dice: io sono convinto che l'Italia ci sorprenderà tutti con una risposta robusta all'epidemia del virus. Speriamo che altri si aggiungano con questo, diciamo, ottimismo, perché ne abbiamo anche bisogno. Sicuramente. Brusin, c'è un'evoluzione prevedibile nel resto d'Europa di questo virus, o le misure di contenimento che sono state prese dagli altri paesi europei fanno ben sperare su questo fronte, o come ci dice Zaia diventerà ubiquitario? Previsioni sono sempre difficili. Quello che è successo in Italia può succedere anche in altri paesi. Sarebbe sorprendente se tutto d'un tratto l'epidemia finisse qui. Non possiamo dire quali paesi o quanti casi, ma sarebbe veramente una sorpresa se non vedessimo altri casi in altri paesi. Anche diciamo, con micro esplosioni di queste dimensioni, dice lei, Brusin, come quelle che abbiamo visto. Sì, questi casi con 10-15 cluster di persone che si ammalano e poi vengono contenute. Questo è uno scenario molto plausibile. Maria, prego. L'ipotesi che se i casi si moltiplichino, si arrivi ad una chiusura anche di altre città, magari persino di grandissime città italiane, è tuttora sul tavolo. Ma secondo lei, professore, potrebbe essere utile addirittura una sospensione di Schengen, cioè ripristinare il controllo delle frontiere europee? Intanto, dottore, non professore, non sono in grado di rispondere a questa domanda. Dobbiamo attendere l'evoluzione. No? Sì. Non... È troppo presto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata molto chiara su questo, che le misure chiusura delle frontiere non sono consigliate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E per adesso questo è quello che la sanità internazionale sta dicendo. Francesco dalla provincia di Foggia, buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, diciamo, ovviamente in questi giorni, come tanti italiani, ascolto l'informazione e mi sono fatto un'idea, nel senso che nel momento in cui è un tampone positivo non significa malattia, però non sempre questo viene ribadito. E questo crea allarmismo, perché poi è vero, per i 3 decessi, peccato, di queste persone, ma sono persone compromesse. E quindi vi prego anche di fare queste cose, di fare informazione. Ottimo. Poi, diciamo, anche prego. Un'impressione, poi chiudo. Secondo me la politica dovrebbe fare un passo indietro, cioè questo è un momento in cui la politica deve stare a quello che la scienza dice, quindi un comitato di esperti che dicano, e che non ci siano virologi che vanno in una trasmissione, uno che va in un'altra, a dire cose che spesso sono anche in contraddizione. Grazie. Su questo mi trovo d'accordo, Francesco. Perché questo scatenarsi di opinioni tra i virologi, un po' narcisi, un pochetto mi sembra, forse non fa bene alla comunicazione, ad una corretta comunicazione, perché se tu senti tante, poi non è elegante questo litigio tra loro, non è elegante, e poi dipende dalle modalità. Brusin, quello che ci dice Francesco è un punto interessante. Poi andiamo a Carlo, che ci chiama da zone da Lodi, cioè ci andiamo a Carlo che ci chiama da Lodi. Brusin, il tema che poneva Francesco, ci chiamava dalla provincia di Foggia, e diceva: ragazzi, bisogna fare la distinzione tra positivo e malato, e forse questa cosa non si sta facendo abbastanza. Beh, è anche più complicato, perché il tampone è il primo test che deve essere confermato da altri test più in profondità per poter dire che il caso di coronavirus è confermato. Poi anche persone che abbiamo visto positive ai test poi non sviluppano la malattia o perlomeno hanno dei sintomi estremamente leggeri, quindi sicuramente questa è una buona osservazione. Quello che però non sappiamo bene è se queste persone con sintomi molto leggeri possono trasmettere la malattia ad altri o no. Questo è plausibile, ma sì, non ne siamo ancora certi. Ci dice qualcosa sul vaccino, dottor Brusin? Abbiamo letto che ci possono essere necessari 18 mesi prima che possa essere identificato e messo in commercio, è così? Non lo so, la sì, risposta sì, più sincera è non lo so. Molto apprezzabile. Tanti studiosi che ci stanno provando e sono sicuro che tutti gli sforzi sono fatti per farlo il più velocemente possibile, però non ho notizie precise a riguardo. Allora ciao, abbiamo Carlo dalla provincia di Lodi, anzi da Lodi proprio credo. Buongiorno Carlo, eccoci. Buongiorno. Prego. Io volevo dire che sono stati presi i provvedimenti, ben vengano l'assembramento delle persone, cercare di non avere troppi contatti, ma secondo me quello più importante è che a Lodi, ma anche dalla Bassa, dal Lodigiano, tutti i giorni ci sono dei pendolari che sono migliaia che affollano in determinate fasce orarie, specialmente il primo mattino, i treni, e vi assicuro su quei treni, quelle fasce orarie, non si possono stare se tutti in piedi uno attaccato all'altro. Insomma, sarebbe stato forse il caso di prendere qualche provvedimento, perché se lì qualcuno è positivo che trasmette agli altri, ci sono migliaia di persone che si spostano anche di città in città. Sì, anche da quel lato, anche se i treni non possono fermare nelle zone sottoposte, non si possono fermare nelle zone rosse, però, però siamo al confine della zona rossa, se qualcuno per caso di qua va su un treno a Milano, e lì c'è il fine mondo sul treno, sono tutti a contatto fisico, non ci si può neanche spostare, solo per la discesa ci si fa spazio. Ma lei pensi, Carlo, che questo stesso dubbio, per esempio, circola tra i nostri parlamentari che questa mattina si ritroveranno tutti insieme per discutere appunto il decreto sulle intercettazioni, e c'è chi dice: ma io che ne so che se mi siedo accanto a un collega che arriva da quelle zone poi non mi trasmette il virus? E la stessa cosa la stanno pensando, anche se non la dicono, i premier europei, perché il premier slovacco pare sia contaminato dal virus è stato ricoverato al ritorno dal Consiglio europeo. Quindi è un tema che si sta ponendo un po' in tutti i contesti. Chissà che cosa pensano i nostri ascoltatori del fatto che i nostri parlamentari siano preoccupati di rivedersi tutti insieme a Montecitorio. Vabbè, insomma, diciamo, sì, mi sembra, posso dirti il... Maria, mi sembra veramente l'ultimo dei problemi in questo appunto momento. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, non credo che saranno molto preoccupati, però. In tutta franchezza, certo Brusina, arrivare al blocco dei trasporti sarebbe una situazione stile Wuhan, insomma, ci si può arrivare a una situazione stile Wuhan, secondo lei Brusina, è il caso? O stiamo un po' eccedendo anche con, cioè io penso anche a tutte le immagini che vedo della gente che fa incetta di cibo nei supermercati milanesi, che dice? Beh, è il momento di essere ragionevoli e razionali. Esagerare non è sicuramente una cosa che aiuta a combattere questa epidemia. Ragionare prima di tutto, leggere bene e ascoltare ovviamente Radio 24, che sta cercando in questa occasione di darvi l'informazione, insomma. Comunque, più la corsa al supermercato è accaduta anche ai tempi della Brexit, la gente corre a provvedersi di cibo, è un atteggiamento umano, magari lasciando poi delle cose strane. Vedevo un tweet nel quale c'era una foto e l'unico tipo di pasta rimasto sullo scaffale erano le penne lisce. Le penne lisce non piacciono. Va bene, ci fermiamo. Grazie a Sergio Brusin per essere stato con noi, per averci accompagnato per tutta questa puntata, capo della sezione di risposta epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie, sede a Stoccolma. Brusin, buona giornata, buon lavoro. Maria, buona grazie. Giornata, e noi ci ritroviamo domani mattina ovviamente alle 8:20 con questa giornata che ovviamente chissà che cosa ci porterà. Speriamo qualche buona notizia. Speriamo. ringraziamo Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera in redazione, Francesco Ciaraffo e Margherita Ina. Grazie a tutti, in particolare a tutta la redazione, per il lavoro fatto nel fine settimana. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.